Benvenuti al decimo e ultimo episodio di La casa del ciliegio. Oggi parleremo di come la mindfulness possa migliorare le nostre relazioni interpersonali. Che si tratti di relazioni familiari, amicizie o rapporti di coppia, la consapevolezza può aiutarci a comunicare in modo più chiaro, empatico e aperto. Ma perché la mindfulness è importante nelle relazioni? Perché ci aiuta a essere presenti e ad ascoltare veramente l'altro, senza giudicare o reagire automaticamente. Questo ci permette di comunicare meglio, di risolvere conflitti in modo più sano e di costruire relazioni più profonde e autentiche. Per migliorare le nostre relazioni possiamo iniziare con l'ascolto consapevole, dove mettiamo da parte le nostre preoccupazioni e ci concentriamo completamente sull'altro. Possiamo anche praticare la compassione e l'empatia, cercando di comprendere veramente i sentimenti e le esperienze dell'altro. Infine, se vuoi scoprire come la mindfulness può migliorare le tue relazioni e senti il desiderio di continuare, puoi unirti ai percorsi più profondi che ho preparato per te, come il protocollo MBSR oppure il percorso Mindfulness for Beginners. Ti aspetto, quando vorrai, alla Casa del Ciliegio.